Lettera di Giuda. Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, ai chiamati, amati in Dio Padre e custoditi per Gesù Cristo, abbondi per voi la misericordia, la pace, l'amore. Carissimi, usando ogni sollecitudine nello scrivervi sulla nostra salvezza comune, non posso fare a meno di scrivervi per esortarvi a combattere per quella fede che fu consegnata ai santi una volta per tutte. Si sono infatti infiltrati tra voi alcuni individui, i quali già da tempo si sono prenotati per questa condanna, empi che stravolgono la grazia del nostro Dio in dissolutezza e rinnegano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. A voi che una volta per tutte avete imparato tutto, voglio ricordare che il Signore, avendo liberato il popolo dalla terra d'Egitto, sterminò in un secondo tempo coloro che non credettero e mise sotto custodia, con catene eterne, nel buio dell'inferno, quegli angeli che non seppero conservare la loro dignità primigenia e abbandonarono la propria dimora, riservandoli per il giudizio del grande giorno. Così come Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, che avendo prevaricato nello stesso modo e avendo seguito passionalmente una sessualità diversa da quella naturale, costituiscono un esempio ammonitore, soffrendo la pena del fuoco eterno. Così sono costoro che in uno stato di delirio contaminano il corpo, mettono da parte la sovranità, bestemmiano le glorie. L'arcangelo Michele, quando disputando col diavolo discuteva sul corpo di Mosè, non osò proferire contro di lui un giudizio di bestemmia, ma gli disse: «Il Signore ti punirà». Costoro invece bestemmiano ciò che non conoscono. Quello che invece apprendono istintivamente, come gli animali bruti, diventa per loro rovina. Guai a loro, perché si sono messi sulla via di Caino, si sono dati al traviamento di Balaam per guadagno, sono periti nella ribellione di Core. Costoro si intrufolano nelle vostre agapi, senza ritegno, come macchie di vergogna, pascendo se stessi nubi senz'acqua, portate qua e là dai venti, alberi autunnali senza frutti, morti due volte e sradicati, onde selvagge del mare che spruzzano la schiuma della loro vergogna, stelle erranti alle quali è riservato il buio delle tenebre eterne. Enoch, il settimo discendente di Adamo, profetizzò su di loro dicendo: «Ecco, viene il Signore con le sue sante miriadi per effettuare il giudizio contro tutti e condannare tutti gli empi a causa di tutte le opere che commisero nella loro impietà e di tutte le parole offensive che essi, empi peccatori, proferirono contro di lui. Costoro sono mormoratori, accaniti contro la loro sorte. Si comportano secondo le loro passioni. La loro bocca proferisce parole inflazionate, mostrando rispettosa ammirazione per le persone a scopo di interesse. Ma voi, carissimi, ricordatevi delle parole dette già dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Essi vi dicevano: «Negli ultimi tempi vi saranno schernitori che si comporteranno secondo i loro impulsi sfrenati di impietà. Costoro sono i seminatori di dissidi, istintivi, privi dello spirito. Ma voi, carissimi, costruendo voi stessi sulla vostra fede santissima, pregando nello Spirito Santo, mantenetevi nell'amore di Dio, aspettando la benevolenza del Signore nostro Gesù Cristo in vista della vita eterna. Alcuni che sono esitanti, stimolateli, altri salvateli, strappandoli dal fuoco, di altri abbiate pietà, ma con timore, odiando perfino la veste contaminata dal loro corpo. A colui che ha il potere di conservarvi immuni da cadute e di porvi davanti alla sua gloria senza macchia nella gioia, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro, gloria, grandezza, potenza prima di ogni tempo, ora e per tutti i tempi a venire. Amen.